essere pulita, non distorta. Ma una cosa la radio uscire pulita, roba. Una cosa è non piacere, se a te non ti piace un conto, ma non puoi dire che stavo scendo male, perché io lo sentivo perfettamente, è solo quel fisico che è sul profondo a volte deve controllare. C'ho le orecchie io troppo filtrate o è tu le tappate, io non lo so, dimmelo tu. Beh, io non ce le ho tappate, sei tu che non ti piace le orecchie, se non vedi il tempo che ogni volta qualcuno che c'ha l'eco gli dici che non ti piace la radio, però non è così, quello è un tuo gusto, però la radio esce bene. Io ho detto che non mi piace l'eco, però non c'entra niente a dire che sta uscendo bene e male. Ci sono ecco, lui come ripetizione non ce ne ha, è un effetto riverbero, appena si sente, ma ne manco più di tanto, perché io ho detto, a me non mi piace l'eco, però ci sono ecco che riesco a sentirli e a identificare quello che sta dicendo, a capirlo bene. E ce ne sono altri distrutti, lui in questo caso è distorto. Poi puoi girare la commedia di Biazzi già, perché anche il medico adesso lo senti, c'ha l'eco, però lo sento bene io. Allora, a Capri invece sta distorcendo. Ascolti, come sei arrivato da me? Se chiamo da Caffè 2. Sta dicendo benissimo. Sta dicendo, abbassa tutto l'eco, abbassa l'eco, riprende l'eco e non sta andando, capito? Qua qualcuno è fuori frequenza pure. Roberto! Sì, come dimmi, dove sei arrivato? Ma c'è tu sì, davanti mia, capito? C'è qualcuno che è fuori frequenza, aspetta, diciamo che non ci sia qualche sblatter, ascolta qua. Ah, vai su 22 te lo senti e poi mi dici se sta uscendo bene. Guarda, se io non ho attaccato l'eco, come è se tu hai attaccato l'eco? Che stai dicendo domani? No, perché ho girato, mi sono spostato sul 22 e poi ho sentito l'ultimo pezzettino della pelle. Cosa hai chiesto se sta uscendo bene? Sì, ho attaccato l'eco a questo galante. Diciamo più che non è che un riverbero, però è chiaro, a me non è comprensibile la voce. Vai sul 22 ti senti a Capri e poi mi dici se sta uscendo bene, se sono io che ho le orecchie rovinate. Qualcosa. cupo. Io non so se te lo stai troppo avvicinando, prova a metterlo un po' più distante dalla bocca e orientalo proprio dritto, non girarlo appena appena, perché magari se lo orienti, mi sembra molto direttivo come microfono, per cui se lo giri appena appena magari ti taglierai a cutti. Sì, adesso allora, fa un passaggio più lungo. Però un po' è migliorato, anche se non è eccezionale la radio. Questo camera è salito adesso? È salito che cosa? L'effetto che ci ha fatto è salito? Ma quasi poco a poco si sente, ma già non è così fastidioso. Poi è inutile, se vuoi io ti posso dire che stai uscendo bene, però non mi piace niente, proprio da 3 a 10 ti do 5 come valore, la radio è 5 però non è il 5 che voglio io, che è piena, pulita, naturale. Ma scusa, non è tu microfoni tipo il Zanne, mi hai detto che c'è tanti microfoni. Ma tu questo è un malato usato un la parla pure, non è soltanto il perché no, proprio guarda, mi dispiace non ti offendere, io ti dico quello che penso, non mi piace la radio. Comunque, siccome mio parere non conta niente, chiedi anche pareri agli altri, dillo, c'è Mario qua, c'è Domenico, c'è Gianni, dai, fatelo dare la loro, Natalino, dillo tu un po' qualcosa Natalino. Da passare un bel amplificazione, perché è troppo amplificato. Ma ne ho detto già da tanto, prova a abbassare i campi, per curiosità. Sì, anche l'ho abbassata, va bene così? Sì, va bene, però io non so cosa c'hai attaccato tu, che perché per me c'è qualche cosa che ti sta sorpiando, non è possibile. Sto fatto. Come? È la mia, bene, hermano, ma tu è chiara, ma io te l'ho detto tante volte, quando ci male te lo dico, però non mi puoi dire che quella di Capri è una buona radio, assolutamente. Allora io non sono in alcuni passaggi quando ero al Ponte Nuovo, che per me andava bene, tu gli hai detto praticamente che la radio era incomprensibile, questo non è vero, va. Mi ha fatto incantare il collo perché cioè, ci dicono le cose come sono. Poi dopo io l'ho risentito, quando ti ho detto poi se soprattutto stavo uscendo male davvero, quello lì sì, quello te lo dico. C'era anche mia figlia, ma chi la come mi ha detto, papà stavo uscendo male, adesso sì è vero, adesso sto uscendo male, però prima non era così. Gianni, io ho esagerato dicendo incomprensibile, la radio lo capisco quello che mi dice, però non sta uscendo bene come potrebbe uscire, quello lì, io faccio quello in riferimento a quello che può dare. Se poi mi sento uno che c'è sempre male e dico sì va bene, la tua radio è quella, quindi così non può uscire, ma siccome può fare di meglio, so che lui può fare di meglio, cerchiamo di farlo andare meglio, non è così? Adesso la mia chiara è la radio. Anche che avete parlato di già, te l'ho detto, è chiara, però anche tu qualche volta te l'ho detto, quando non mi piace te lo dico, è inutile che io mi devo accontentare, ma farti contento, dico ci stai uscendo bene Gianni, o chi che sia, a me non mi interessa niente, se volete un parere da me io ve lo do, poi se non vi piace accettate quello che volete, e chi è che sta chiamando là? Allora, ti sei abbassato come distorsione, per cui come livello fai meglio, però, ripeto, come prima la radio è un po' cupa, non è molto naturale. Non è lì, c'è da me come modulazione. Io qui, guarda, io sto regolando, poi non lo so chiamare più quello che vuoi. Sempre lo stesso, sempre basso. Ma dove sei tu? A casa. No, adesso si sta uscendo fuori, però facciamo il movimento. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, Giuseppe sul 21. Buonasera Gianni, ben sentito, Roberto, Capri 2, Natalino e poi non so chi altri. Avanti Roberto. Sì, buonasera Giuseppe, ben sentito, c'è anche Mario, ti rilancio per Mario, avanti Mario. A me non mi sento mai, se non mi tuffi lì, è sempre pensato di tenermi nell'antenna. Buonasera Mario, ben sentito e cordialità innanzitutto, come sa va? Sono bene, servo. Diciamo Mario, un po' di stanchezza da lavoro, ma diciamo che va bene, dai, va bene così, l'importante è tirare avanti e lavorare sempre. Ecco, per il positivo, quella è la prima cosa essenziale, perché se manca quello manca tutto. Cosa stavo dicendo? Ma stamattina sei uscito molto tardi tu al lavoro. Sono uscito alle 9, Mario, è il tempo di caricare. È il tempo di caricare, è la faccia. Esce alle 9 del mattino del lavoro. No Mario, non per colpa mia, ma dovevo salire a tempo, quindi per rimanere fermo per strada hanno preferito farmi partire più tardi, mi hai capito? Però perché stamattina c'era tutti, c'era Gippone, c'era Trattore, c'era Vulcano, c'era di tutti, mancavi solo tu a figlio. Io sono rimasto orfanello stamattina Mario, ma già ci rifacciamo i prossimi giorni, dai. Dimmi una cosa, visto che quando sono entrato ho sentito radio, radioline, radiolone, dammi un segnale tu Mario, vedi un pochino come sto andando, se no lascio tutto così. Allora mi stai arrivando, Santiago 9:20 e Radio 5, perfetta. Cappa Mario, grazie, avanti Robè, fai girare. Sì, ancora che c'era Domenico, vediamo se c'è ancora. Domenico, sì. Due notte non si è passato in galleria. Avanti già, riprendi tu. Sì. Via Capri 2, avanti Capri 2. È un po' più basso di prima, sia di segnale che di rimodulazione, però mi sembra un po' più chiaro. Riprova un po'. Sì, guarda il segnale, quanto è adesso? Quasi 9:20, però c'hai roba presso, ti stai portando. Un po' cupa, però più comprensibile di prima. Io non lo so, io ho regolato tutto quello che vuoi, quell'apparecchio, dove devo passare ancora cose per farla, Ok, guarda lei, sono questo. Scusa un attimino, non c'era tu un MP5 che c'è il controllo di tono, o qualche microfono simile con controllo di tono? Non è un, io sto usando un MP100, sto regolando dall'apparecchio, e poi c'è quello già. Diciamo, per certi versi magari c'è appena un pochettino di acuti, però c'è sempre questo rumore che è più presente di prima. Quello può essere, ma non so neanche io. Non è che male c'è qualcosa nello schiocco. La batteria carica, Sì, già, è nuova nuova. E allora è qualche cosa di massa. Sicuramente è qualche cosa di massa. Prova a mettere una massa. Tutti bene già. Adesso in questo passaggio ti sentito bene. Ok, ma è amplificata la radio. Cappa. Quindi io non ho toccato nulla, sto regolando, sto regolando, cioè, hai capito? E come è fatto il microfono, altro, non ho aggiunto altro. Mario Manser, come mi ascolti tu? Io ti ascolto pieno dei leschi in questo passaggio. Adesso non so se c'è portata, che cosa sia. Però ti sento tutto pieno di dischi. Sì, l'innesco c'è, ma la radio ha migliorato. Sì, la radio ha migliorato, però è piena di dischi. È tutto un abbrutto. Quello sì, quello lì ce l'ha davvero. Però la radio ha migliorato, è più forte, più chiare. Sì, come radio ha migliorato, però c'ha molti rumori già. Io non ho detto che la radio è brutta, bella, cattiva, distorta. Ho detto che la radio è buona, però c'ha molti rumori, c'ha molti dischi, è tutto un prr. Sì, sono d'accordo con te su quello. Bisognerebbe provare a mettergli un filo di massa, a vedere se qualche cosa di massa che si fa. Capri. Capri. Mi senti? Allora, l'altro giorno avevamo un po' ridotto quel rumore, abbassando il mic gain dell'apparato e sollevando quello del microfono. Perché secondo me tu stai tentando l'inglese, l'uscita dell'apparecchio è troppo forte per il microfono, il mic gain. Per cui sta distruggendo dall'apparato. Tu prova a abbassare il mic gain dell'apparato e solleva quello del microfono. È ok, guarda che io sto usando l'apparato, il microfono in mezzo mi oggi. Ah, addirittura c'è con un altro apparato dall'altro giorno. Fammi una prova, adesso sembra di non c'è di niente. Riprova a parlare. Ora, 1, 2, 3, 4. Ma adesso non lo sento più quel disturbo sotto, dai. Ma di filo mi come abbiamo saldato, forse lo vedi. Perché ho fatto delle saldature che non ci sia qualche, diciamo, contatto. C'è un pochettino, ma la portate senza parlare? Però c'è un rumore di fondo e non vorrei che sia quello lì che c'è troppo alto l'uscita microfonica dell'apparato rispetto all'ingresso del microfono. Adesso tu perché adesso ti sei abbassato troppo, sono andato a quello vicino, parlo dell'apparato e poi lavori al contrario sul microfono. Che è rimasto qua? Ma Natalia ancora c'è? Natalia ci sei? Vai Mario. No, questa mi piace, quella pulita, neutrale, nel senso non c'è predominanza di tonalità, ce le hai tutte, quasi tutte almeno, dai, va benissimo, infatti, ho detto, non è il solito tuo quello. Ma è il solito mio, io mi, in questi giorni, sto usando questo qui e l'altro grande, gli altri due ancora non li sto usando perché, se è evidente ci sono le schede, che vogliono pulite e quello lì lo faccio parlare con foglio con la trianina, gli faccio sfilare tutte le schede perché in ricezione vanno benissimo, però in trasmissione non mi piacciono perché io quando gli accendo che li stiamo provando ci ascoltiamo con gli altri apparati, però le trasmissioni erano molto brutte. Niente, appena che viene il pompone ce li apriamo tutte e due, sia il 707 che il 7B, in trasmissione non mi piacciono, mi devo far dare una pulitina alle schede e poi dovrebbe andare bene. Ciao, però tu la radio va benissimo, c'è un residuo di alternata sotto, non parlare ma da solo la portante. Già lo so perché in questo mobile io ho fatto, siccome questo microfono è di quelli che c'è la cornettina che si piega, no? Tipo quasi tipo il citofono rimane. E niente, ed è sopra all'apparato infilato. E niente, però sotto c'è l'alimentatore suo. E giustamente per l'alternata la devi sentire, appena appena ma c'è. Prendi un cavetto di massa, tocca con la mano il PL a vedere se diminuisce. No, mi tolgo il microfono, adesso c'è l'apparato e mi senti meglio. Adesso l'ha diminuito l'alternata. Ma poi se non ci voglia di un microfono, non sembra l'apparato. Ah, allora il problema è l'apparato. No, adesso già sei andato bene. alza e si abbassa. No, sta facendo già, ancora sì, sì. Strana la... l'uscita. Nella punta, so che in alto ci sono stati i buchettini dove lì c'è il microfono sicuramente. Invece l'altro è diverso dal pressavente, come quello di Pupù. Gianni, ti sei abbassato di nuovo. Io? Lo so. Quanto sono di segnale, Roberto? Ne ha circa 9,20. E adesso? Come sono? No, lo diminuito io l'apparato. 9,30. Vedi. Se lo diminuisco io, sto facendo meno di un quarto, aspetta. E la cosa è così, mi sta facendo così già, che tu dicevi non è possibile, allora vedi se era possibile. Lo sai cosa ci avevo, il power al minimo. Cosa ci avevi? Il power al minimo, era 20 mili, ho fatto una cosa del genere, adesso così, mi ascoltate, io sto facendo con poco più di 20 mili, ho fatto nemmeno un watt. Vabbè, gli altri tiro fuori benissimo, non ci sono problemi. No, perché qualcuno diceva, ma non è possibile, sta andando tutto bene, ma quando sei vicino non te ne accorgi, ma quando ti allontani già te ne avvisi, quando sei nella sabba. E probabilmente era quello, ma adesso mi aumento il power, te lo faccio vedere, vieni qua, aspetta. Guarda così. Sì, ti sei di nuovo un po' sollevato, non sei a pieno come prima. Roba, lo sai che io mi diverto, va, guarda, adesso sono pieno dopo il primo. Adesso stai facendo qua, prova a parlare. Ora. No, parla bene già. Cosa devo dire? Che non so, guarda però, lo sto scendo. Adesso sei saturo. Lo so. Ti stai mangiando la radio. Non capri se c'è ancora, allora ti capri. Che ho perso, che l'abbiamo già perso. Domenico ci sei? No, non lo sento più. Chi c'è poi su questo canale? Attenzione, 21 che vuole entrare. C'è la palchetta, è sparito. La palchetta non l'ho sentito per niente. Mario, forse sta confondendo con Giuseppe. Ma forse sta mangiando. Ne ha approfittato e sta anche mangiando. Cappagnata. Avanti Giuseppe. Sì, grazie Mario, vai. Io quasi quasi ne approfitterei di un panchetto per sgranocchiare qualcosina, dai, che vedendo e piazzando se sono fatte le note. E niente, dai, ci sentiamo tra 10 minuti se Dio vuole. E niente, ci facciamo una chiacchierata, dai. E salutoni belli a tutti i circolari e senza così non dimentico nessuno, dai, ci sentiamo tra 10 minuti. Ehi, ciao Giuseppe, comunque sì, qui ero, non ti avevo manco salutato poco fa. Capo, ma la cena anch'io, dai, ci sentiamo tutti a dopo. Va bene, sì, buon appetito e tante belle cose a tutti, a tutti. E via la salamance! Che mi ultimi! Il mano di Dio no, sennò di licenzieggio! Calagata! Buonasera Vela, i miei ossequi, mannaggia, lei mi becca sempre quando esco. E stasera ho messo la sveglia, tra 10 minuti suona. Vediamo. Pare positivo. E tu già cenato, Vela? Già fatto. Ecco, dai, io adesso guarda, faccio una seduta e un'alzata e sono subito qui. Beh, signore, ci vado anche io, dai, se mai ci sentiamo dopo. Passa un 22 un po'. C'è un attimino, scusate, passo un attimino a 22 con Capri. C'è un tempo comunque. Grazie per Paolo. Passato. Ma ascolti a me, Vela. Benissimo, va. l'importante è che sta sempre bene. Sento che c'è il signore, il TV appena appena di evoluzione alternata, viene uno. Il posto di alternata io sento una televisione. Abbagliata? No, perché io ho il microfono, no. Vabbè, tu non sei salito, ma tuo figlio è salito. E mi ha detto, quella lì è la tua stazione, si è già fatto le cittadine. Partito che erano le 5 quasi a un quarto passato la nottata ieri, perché ieri era veramente fredda. Thank you. tardi. Io mangio sempre alle 9:30, 10, è vero, poi finisce il film e mi curi, colà. Domani mattina sono sveglio come un galletto, presto presto. No, così vuole. Gabba, domattina direzione. Ah, io devo andare sempre in Campanone, poi non lo so se non è che mi tocca andare a bordo, perché poi sono arrivate le caldaie e non lo so se mi mandano a bordo domani mattina, ma comunque io sempre a deposito a quell'ora devo andare. E beh, tu, ti è piaciuta la mia piccola stazione? Sì, va bene. E ce ne sono appanati, eh? Ma ci difendiamo bene, dai. La faglia la fa. Sì, sì, già va bene, a voglia. Quanti ne hai? Qui in questo momento ce ne sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 sono da Pompuno e sono 15 e poi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ce ne sono qua. Sono i portatili. Contano anche i portatili. Siamo lì, dai. No, va bene. Quando c'ha la passione, poi li usa tutti, dai. Noi li usi tutti in una volta, no? Un giorno accendi uno, un giorno accendi l'altro, e così via. Ma come faccio io, ogni tanto ne spolvero uno e l'accendo. Ah, cazzo di positivo, guarda. Riprenditi a parte, io mi approfitto che mi avvicino al PH piccolino. Scappa, scappa, vai, vai, tranquillo, vai, là. Oggi tra le 21 che vuoi fare. Attenzione sul 21, Giuseppe, modulazione cambio. 20 minuti, esatto. K, oggi guarda, ho fatto il bravo ragazzo. Buongiorno anche a te Antonio, ben sentito, mannaggia, e ben sintonizzato sul magico 21. Gerardo, buongiorno, siamo di sera. Ehi, Anto. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon tutto. L'importante è sempre sentirsi, K. Ok, devo passare una qua, no? Ah no, Pierpa, io guarda, non so manco più che cosa dire, Pierpa. Manco male già va già te, ogni tanto cazzo mi dai una mano. Ma quando io mi dico di chi si cazzate, quindi non sei da solo. Cappato, non è un problema quello, fossero tutte queste le stupidate che si dicono, saremmo stati tranquillamente in un mondo felice a quest'ora. Ma sì, è vero. Ma sai qualcuno di cui io di salvare? Sì, ma vabbè, quello vabbè, è una cosa così, ma di cavolate, lo sai quanto ne sparo? Avanti! Comunque, stavo dicendo, ogni tanto dovresti andare da Corma a Fusano, che c'è una bomboletta di spray, che serve perché ogni tanto se tu dietro il PL, oppure se sali su ogni tanto, ogni pochi mesi, sali su e dai una scusata di questo qua. così è. Sì, papà, non c'è nulla. E andà bene, Pierpa, non c'è problema. Appena ho due minuti liberi me lo faccio un salto e lo prendo. E, ma com'è bomboletta spray tipo CRC? Sì, una bomboletta spray tipo CRC. Tu dici liquido e metallo, una bomboletta liquido per stazionare. E K, adesso me lo segno, Pierpa, perché questo non lo sapevo. A dirmelo, adesso me lo segno e se ho due minuti di tempo sabato mattina ci passo e me la prendo. Ma dimmi una cosa, ma le PL quando glielo spruzzo li devo staccare dal baracco, Pierpa? No, così attaccato le devi spruzzare, non staccare niente, e se no è finito lo scopo, deve toglierla così. Kappa, anda bene. Una cosa in più immagazzinata in testa questa sera. E niente, lo prendo sabato mattina, Pierpa, e già me lo faccio qui nei PL di casa. Ma guarda, va bene. Io ti ho detto per sicurezza, per ricordarlo. Beh, hai fatto bene, anche perché, come ti ho detto poco fa, Pierpa, io ero del tutto ignaro che questa storia esistesse. Ah, non sapevo, nessuno te l'ha detto, Di solito, perché non lo sta dicendo più nessuno, ma di solito è un weekend, lo dicono tutti. Kappa, no. Ti dico la verità, Pierpa, è proprio la prima cosa che sento in assoluto oggi e hai fatto bene a dirmela, perché se è una cosa che serve la prendo sabato mattina stesso. Va bene, Mario, ci sei? Vabbè, ci sono, c'è il ben rientrato, la carica tutta a posto, sì. Oh Mario, ciao, cordialità anche a te, dai. Sì, la carica diciamo tutto a posto, oggi ho battuto il record del record e sono riuscito a mangiare in 20 minuti. Sì, io mi sei mangiato, ma tu ancora, quanti ti dura? Kappa, sapessi qua, no, io non faccio nomi perché qui non conosco nessuno, mi Mario, tu lo sai benissimo che io sono, buongiorno, buonasera con tutti, però mi sa che mi stanno anche cronometrando. Bubu. Mario, dimmi, insomma, tu di quello spray per accantilare lo stai sempre usando, sì. Cos'è? Quello spray per accantilare lo stai sempre usando. Ma io sono 20 anni che non ho entrato di nulla. Avvero, io quando ho piantato l'antenna, l'abbiamo appoggiata e abbiamo tolto la stazionaria dall'antenna, cioè tramite la spirale, no? Tu lo sai che la regoli e ti regoli la stazionaria. Dopodiché abbiamo fatto la discesa del cavo e l'abbiamo misurata. Abbiamo misurata onda dopo onda, capito? E così che io ho il cavo che è giusto, cioè ce n'è in più sul tetto, ce ne saranno 5 metri in più sul tetto e gli ho fatto fare il giro della gabbia dell'ascensore. Poi l'ho fatto scendere a casa e io so, diranno anni che non controllo i stazionari. Domani è abbassata, è giunto Bomboni a casa, non questa, non l'altra. E si è messa a guardare se c'erano stazionari, e domina quanto sono di stazionari, 1 e 1. Tutta meraviglia. del bar, sabato lo prendo. Va bene, capa. Prendilo tu perché non si sa mai. Lo sfrutto un po' dietro il piede e poi sulla molla dell'antenna e così vedrai che stazionario ce ne sono. Cappa di Roger, l'amico Pierpaolo. È come che ce l'abbia qui al mio fianco la bomboletta. Ciao, ti può dare conferma, Avvagava. Buonasera a tutti, sono rientrato, ciao Giuseppe, ciao Pierpaolo, ciao tutti gli altri amici, che non so chi ci sia, Mario e via dicendo. Non voglio dimenticare nessuno, più saluto tutti. Avanti Giuseppe. Sì, ciao Giabbi, risentito e sì, la bomboletta come mi ha consigliato Pierpaolo la prendo e una spruzzatina gliela sparo su, dai, perché se queste benedette stazionarie bisogna stargli un attimino dietro, è bene che si faccia quel lavoro lì. Giuseppe, guarda, perché sei un amico, ma ti ho fregato, perché freghiamo un po' tutti i novellini, che non è sano di questa cosa, non esiste, vai. Guarda, se fossi stato altro ti avrei mandato a prenderla, se mi avresti mandato a quel paese, sabato. Pierpaolo, questa aspetta un attimino che mi prendo un pezzettino di coso, di filo, questa me la sto legando al mignolino. Eppure già, la vista visto lì, non è affondato, la vista lo sta stazionando. No, io l'avevo mandata a coprire due tiri di polverina, uno, polverina per stazionare. Dai, non te lo faccio questo scherzo, Giuseppe, dai, avanti, ce l'abbiamo scoperto. Cappa, dai, comunque la cosa positiva, sai qual è, nello scherzo? Che fortunatamente questo spray non esiste e così non spendo quei soldi, Pierpa. Sentite, io stavo per comprare la bomboletta, quella grande che era più conveniente, però tu non mi lasciate il tempo. Mario, tu non intervieni, mi aiuto, no? Senti, cave, due contro uno solo. Sì, ma lui no. Guarda che la frequenza è fatta anche per scherzare. E se non si scherza con i novizi, con chi si scherza? Va bene, hai visto, avete trovato adesso la persona giusta, ma attenzione sul 21, qualcuno mi venga in aiuto, vigliacchi. Dai, io sono bloccato il tempo, vai, se no sabato ti facevo andare. Cappa, te l'immagini la razza di figura che ci avrei fatto lì? Ti ride in faccia, pulito se vuoi anche. Te le immagini? Ah, cosa vuoi? Io non c'è la ma se vai da quelli di Bussaro, cosa? Magari per le fasi burocratici, scusi, no, l'abbiamo finito. Che in fretta a cenare mio, Gianni, per rientrare puntuale, guarda, mi ha aspettato al varco con la bomboletta, E anche io ho fatto in fretta, c'era un po' di roba da mangiare, ma ho fatto da bravo. Ma io lo stesso, dai, tanto molta fame non ne ho, perché ho mangiato bene a Olbia oggi e a dire la verità non avevo manco tanta voglia di cenare, l'ho fatto giusto per fare compagnia a mia moglie e alle ragazze qui, giusto per esserci anch'io, dai, seduto 10 minuti. Va bene, avanti Mario. Sono stati almeno 10 minuti con la famiglia a tavola, che non riuscirei mai, se sei preciso. Cappa Mario, però hai visto qui mi tirano sempre le orecchie, io bisogna che mi ribelli un pochettino qui, no? Non devi ballare. È molto bello stare con la famiglia, almeno mangiando. Cappa Mario, cappa. Sì, casi, per amor di Dio, è beato al giorno d'oggi che ce l'ha una famiglia, ci mancherebbe altro, cavolo. Gianni? Ehi! Ehi, ma stiamo guardando, da me stiamo guardando, come si chiama? Grande Fragetto. E me ne sono scappato. Carità! Scusa! Come del anche collegato vicino l'altro. Ma non, stasera c'è qualcosa che non va nella nostra connessione. Aspetta un attimino che mi avvicino il microfono. Avvicino il microfono. Mi senti tu? Io ti sento, tu mi senti? Sì, io ti sento. Perché sembrava che quasi non mi capissi. No, io ti capisco. Io ho detto che mangio anche persino vicino al gatto. Ah, come sta la pantera? Sta meglio lei di noi, mi Pierpa, al calduccio, tranquilla, tutte le comodità. Ma che, già state mettere me già. Da Svegliano la porta l'altra da casa, altro che. E soprattutto per mangiare non deve andare a lavorare. Cappa. Ma tu hai detto che sono malatoso, ma è così. Dai, malatoso sono. In effetti un po' sì, sì, la verità. Che microfono stai usando? Diverso. Ah, maratoso, nulla. Nulla. Ma se professo. Adesso no, ma poco fa, quando Giuseppe ti ha detto non siamo connessi, non abbiamo la stessa connessione. Lì in quel punto lì un po' ti ho sentito maratoso. Come, così? Passaggio. Quando parlo così? Cappa. Lo so, perché sto facendo un stupido, come te, faccio una cosa male, il tubo di cartone che è male, lo scopo, perché sto facendo uno stupido, capito? Ah, cappa, cappa. Oh, io... Grafica che parlo e per me fa maratone. Questa la mettiamo insieme con la bomboletta dello spaio per le stazionarie. Se parlo dunque vieni fuori dalla cantina stasera, Giuseppe, domenica, ma sì, sabato ti accompagno a prendere la bomboletta. Cappa, per parlare, se passi ti offro il caffè e poi scendiamo assieme, non c'è problema. Entro io, così mi prendo anche quelle due bananine per il trasformatore. Cappa, cappa. Ma stasera mi sento pazzo, comunque, diciamo, solleviamo qualcosa qua. Nulla. Ecco qua, nulla. Adesso va bene. Voglio togliere il bambino, già tra il microfono, così tazzi. Addio. Oh, comunque, faccia da brava, che se no io voglio usare la mole in camion, mi. Ma io mi faccio prestare il seghetto, mi, qua, l'amico Giuseppe. Il seghetto con la lama nuova, e ho messo anche l'olio nuovo nella pipetta per fare meno rumore. Cuccio. E fa così, a me mi scappa da ridere. Guarda, io con la gru che ho nel camion, tanto lo telecomando, mi imbrago nei pantaloni con il gancio della gru e lo faccio manco fatica ad arrivare sul tetto, guarda, Mario. Due colpi a destra e due a sinistra di coso di lama e il gioco è fatto lì. Ti rispondo io, ma c'è il segreto, c'è il luglio, c'è la ruota, ma diventi un piccolo particolare, non hai il passaporto per venire da questa parte. Negativo, negativo, tessera magnetica già in barra pesante, Pierpa, alla grande. No, qua ci vuole il pass speciale, dimmi lo Mario. No, che manco se ne avvisa, ma se ne fa qualunque che volo di ruti, lo so che la conosci benissimo, ma no, che lo sai che se sei sicuro Romino e volete vedere lui, ma fai tanto mancatia che mi manca di carriere da un camion. Cappale positivo, magari può essere anche così, ma diciamo che anni che frequento quelle zone lì, dai, non sto lì adesso a scendere in particolari, però dal grattacielo in poi i garage sotterranei compresi li conosco come le mie tasche. Tu li potrai conoscere come le tue tasche, ma non conosci chi c'è. E no, che come ti dividi se gli aiuti. Non fai tempo manca di qua. Già lo so, Mario, già lo so. E cappa, dai, ecco allora perché l'altro giorno mi ha detto fermati Giuseppe a prendere il caffè, te lo lascia, dice, il camion è vicino ai grattacielo. Delle bugie, guarda che le bugie hanno le gambe corte. Io non ti ho detto di lasciare il camion vicino al grattacielo, io ti ho detto vicino alla stazione ferroviaria. L'hai vista la stazione ferroviaria, dove si ferma la metropolitana. K di positivo, e so benissimo dove si ferma la metropolitana. Quella era la chiesetta di Don Ettore, mi pare. Don Gavino. Don Gavino, dai, adesso quella che c'è lì nella bretellina. K, e lì c'è quello spiazzale, ti avevo detto di lasciarlo lì, si dico il camion. Non te ne ho detto io di andare al grattacielo. Anche se mai lo vedete al cielo, non vi acciappa le gomme, Lucanio, ma se ti vedi se ti bruciate pure la cabina. Mazzarola, andiamo bene lì, e meno male già assicurato anche per furto incendio. Appagata, no, ma se ti conoscono già non ti toccano nulla, no, perché lì di solito viene uno che guida il camion della Tirso, quello che porta le macchine, e siccome abita in quelle palazzine all'Erchino che ci sono quasi di fronte a quella vecchia chiesa, e l'articolato, cioè l'articolato, quello lì non è un articolato, quello lì è un autotreno, è vero, perché è motrice di Murchio, quello che porta le macchine lì. Quella è una bisarca, Mario. Quelle che trasportano le macchine sono bisarche. E vabbè, sempre molto ci rimorchio, lo conosco anche quel tipo lì, che fa i trasporti con la bisarca della Tirso. Ci siamo trovati anche da poco qui a Coso, a come si chiama quel supermercato che c'è via di Porto Torre, il Ruspini mi pare che si chiami. Cappale positivo. Comunque dai, tutto il mondo è paese, dai, perché qui a Sacro Cuore, volendo, venerdì niente, tutti i rompi, eppure, buongiorno, buonasera con tutti, vi saluto con l'inchino, ognuno per la strada sua. Cappale positivo. Ma ci avete anche persone per bene, non è che... Ma ci mancherebbe altro, il discorso che faccio io è che ci abitano più persone per bene che persone poco serie, Mario, ci mancherebbe altro. Da poco mia figlia andando a prendere il tram per andare a scuola, siccome era in ritardo, l'ha perseguitato in via Pascoli e corre e non ha perso il telefonino. L'ha raccolto questo signore, praticamente dopo me l'ha raccontato lui. Il fatto sta che io ho telefonato, mia figlia mi ha telefonato al telefono di un'amica, mi ha detto così e così, papà. Adesso facciamo una cosa, telefoniamo al numero tuo e vediamo un po' chi risponde. E mi ha risposto questo signore e mi ha detto guardi, io ho visto sua figlia che stava correndo, gli ha caduto il telefono, ha preso, se non ho fatto il tempo manco a dividere il telefono. Fatto sta che l'ho preso io, che ho stato mi chiameranno, oppure tramite qualche numero che c'è, chiamo. Beh, non so dove abitava questo qui, se te lo riconosci qui. Sotto a casa tua? No, abitava proprio lì, ai grattacieli della dove sono malfamati quelle case che lo chiamano il Bronx proprio. Beh, questo qui gli ho detto io che andiamo a farci una cosa perché è stato gentile, no? Io sono andato lì a prenderlo. È stato gentile, gli ho detto andiamo al centro a farci una cosa, quella dove c'era la chiesetta lì. Beh, lo sai che non ha avuto manco a pagare la prima, ha pagato le tabi. Il cazzo, ragazzi, no, già ce ne sono un bel di persone in gamba, addirittura lì di fronte alla, un po' prima della chiesa, hai visto quella via che c'è a senso unico, in quelle villette basse c'è il Vitano Venturi. E quella per andare alla stazione, diciamo, dove c'è forse già il livello, va? Oh, proprio quasi di fronte alla chiesa, alla vecchia chiesa, là. Anziché entrare nei turchi sotto, quei garage che stava dicendo Giuseppe, appena più avanti c'è quella traversa che va a essere al grattacielo, lì ci abitano i turchi, ci sono appartamenti dal nord di Sardegna, dove danno gli appartamenti ai giocatori della basket del Banco di Sardegna, è vero, e niente. E sì, vabbè, il mondo è paese, ma non è che ci sono le persone cattive e le persone brave da tutte le parti, non è che ci sia un problema per quello, io ci credo che ci siano persone tranquille anche. Il campo del positivo, ce n'è tanta gente che, ma tranquilla vedo, solo che purtroppo per colpa di pochi dicono un grosso, però se hai tre maraghisi devi migliorare tutto, Vabbè, in mezzo alla massa c'è sempre il delinquente, c'è poco da fare. Avanti Giuseppe. Ed ecco Giuseppe qua, sì, effettivamente è così, ma ti ripeto, io ho passato la mia fagiolezza, si può dire, lì a Latte Dolce, perché ci si frequentava, dai, quella zona lì, bene o male, l'abbiamo, anzi l'ho vista crescere, quei palazzi li ho visti addirittura costruire pezzo per pezzo, quella schiera di palazzine dove sta Mario, figurati se non li conosco. E niente, perlomeno io tutte le volte che scendo mi sono sempre trovato bene, ho amici che sono di un certo livello, ho amici che abitano lì che mi hanno riportato a casa la macchina, perché io sono stato un mese e qualcosa senza la macchina perché me l'avevano rubata da sotto casa, no? E ti posso dire che con tutta tranquillità me l'hanno portata fuori loro, quindi non proprio in quelle zone lì, guarda, non ho niente da dire, anzi tanto di cappello se devo essere sincero. Lì se conoscete ce la fai a ritrovare, ma quale, quella che c'hai adesso? No, l'altra, avevo quella, come c'era Pierpaolo, soltanto che era un po' più scura, proprio il colore canna di fucile, ma era un gioiellino, nuova, e me l'avevano portata via, che ero in ferie. Ma proprio come se vai a raccontarlo, guarda, non ci credono, perché è stato proprio questione di un minuto, tempo di salire a casa, poggiare la roba che avevamo dal mare, tipo borsa frigo e qualche altra stupidata qui, proprio poggiato qui in cucina, mia moglie ha guardato se serviva qualcosa, perché l'indomani, che era domenica, avevamo deciso di stare tutto il giorno al mare, siamo scesi e la macchina non c'era più. Ma lì dobbiamo mettere adesso? Cappa. Cacchio. Ma non era gente della zona. Negativo. La macchina era sotto controllo già da 15 giorni. Pagava. Tirerà di intendere. E grazie a questi due amici che abitano proprio lì, vicino all'amico Mario, 15 giorni mi hanno portato fuori la macchina, anche se poi tramite il libretto di circolazione che avevo lasciato dentro, sai, tutti i documenti, si erano risaliti anche al mio numero di telefono, no? E mi avevano contattato per farmi prezzo per restituirmi la macchina. hai capito? Non voglio dire qui in radio che cosa tutto gli avevo promesso io allora, no, a parte i soldi, perché di soldi non avevano visto niente, però qualche altra cosa in corpo gliela avrei messa, mi hai capito? Però poi sono intervenuti questi carissimi amici e mi hanno detto facci indagare un pochino, vediamo un pochino se riusciamo a muovere qualche persona per sapere dove era la macchina. E la mia macchina era pronta per essere fatta in mille pezzi, perché i pezzi della mia macchina erano già, la cosa era stata fatta sotto ordinazione, mi hai capito già? Ah, sì, sì, erano già promessi a un acquirente. E poi in pratica rimaneva solo la carcassa, che poi ho saputo viene tagliata a colpi d'accetta nei montanti, fatta in quattro pezzi, e poi non trovi più niente. Tutto organizzation. Se vedi io che cosa ho visto, Gianni, credimi, questo me lo porterò dentro sino alla morte, perché è stata una promessa che ho fatta. Nel posto in cui mi hanno portato mi hanno detto controlla se c'è la tua macchina, ti siedi e te la porti via. Purtroppo lì non c'era, ma tu dovevi vedere meglio dei meccanici Ferrari lì lavorando, tutti con trapani ad aria, cioè una cosa organizzata alla grande. Ecco perché io dico, la macchina si riesce a trovarla subito e bene, passata la settimana e 15 giorni mettiti il cuore in pace. Se la smonta la non lasciate più. La mia me l'hanno recuperata e l'unica cosa che non sono riusciti a togliere è stata una scheda telefonica che hanno fatto come chiave, no? Per poterla mettere in moto c'era un pezzo di scheda telefonica fatta proprio uguale, identica alla chiave dell'appunto, e niente, ho dovuto cambiare solo il pezzo del blocco a terzo lì nella macchina, poi per il resto c'era tutto, i giochi della bambina ancora nel bagagliaio, tutto quello che c'era, l'autoradio, tutti i CD, non hanno toccato niente. L'unica cosa che è successa a chi mi ha portato la macchina è che uno gli hanno ingessato le gambe, perché questi qui gli avevano detto che quella macchina non era da toccare, tutto lì. Ma che era? Vabbè, è un'altra punizione. E così io mi ricordo, per Paolo lo conosci, Agostino ce l'ha comprata questa vecchio io, uno zip della Piaggio, e lo stava ancora pagando, c'era pochi mesi. Lui fa l'autista come lo fai tu, lo faceva prima al Polo Nord, adesso lo fa in un'altra ditta di surgelati, ma sempre fa guidare il camion grosso. Fatto sta che mi hanno rubato la moto da dentro il cortile, hanno il cortile, c'è il telecomando, toccato lui, l'ha messa dentro il cortile, chiusa con la chiave, con il lucchetto, è salito 5 minuti a casa, si è lasciato il borsello con patente del camion, documenti vari, eccetera, eccetera, hanno rubato la moto. E un nostro amico ha detto, dai, ci penso io, non ti preoccupare, che te la faccio vedere io, tanto sicuramente gente di Santa Maria di Pisa della Latte Dolce. Ha indagato e ha saputo che era stata venduta questo qui, era trovata questa del fratello di un'amica sua. Per non cercare a questo qui ha volato tutto, e ecco, lui è rimasto senza moto, senza documenti, ha dovuto rifare tutti i documenti, perché non ha denunciato, perché lui gli ha detto di non denunciarlo, che ci pensava lui. Mentre invece a lui gli hanno rubato la macchina e due giorni l'ha trovata. Hai visto? Quando magari riesci a avere le conoscenze giuste, Gianni, riesci a risolverla bene la cosa. Però se non hai conoscenze, io ho visto gente disperata girando giorno e notte lì per cercarsi la macchina. Già lo so, più di una volta che noi l'abbiamo cercata con le baracchine e cose, andati nelle zone strategiche, ne hanno rubato più di una di macchina di amici. E poi ho già quello che mi ha dato più rabbia a me quando mi hanno fregato la macchina, lo sai che cos'è stato? Che mi hanno fottuto la macchina con l'antifurto, no? Soltanto che per la fretta, no? Tanto sapevi che stavi salendo e scendendo, manco l'ho messo il giorno. A volte fai degli sbagli e non ne approfittare per quel momento. Magari ti stavano seguendo e tu manco accorto te ne sei. E infatti qui ho avuto la conferma quando poi ho saputo tutto il retroscena della storia della mia macchina, mi hai capito? E che mai andavo a immaginare che la mia macchina, secondo la testa loro, 15 giorni prima era già stata prenotata per Tizio, Caio e Sempronio. Io non immaginavo manco per coso che ero già seguito per tutto il tempo. E lì hanno trovato il momento giusto che ho lasciato la macchina così, ma se voglio esagerare posso dire 5 minuti. Dai, che non c'erano il tempo di salire le scale, poggiare, che manco la roba l'abbiamo messa a posto, appoggiata proprio qui nell'ingresso di casa, e poi siamo riscesi. Oh, la macchina è andata. Che cosa hai fatto? Impazzito. Impazzito? Io in un primo momento non ci volevo credere, perché quando sono sceso c'era mia figlia, no? La grande mi ha fatto, dice, papà, ma ti sei accorto che la macchina non c'è più? Ma gli ho detto, ma quando mai la macchina? Poi sai, ti rimane quell'attimino di vuoto in testa, no? Cioè sei sicuro che la macchina era lì, però allo stesso tempo ti rifiuti di credere a quella certezza. Anche mi sono avvicinato lì alla fine della via, c'erano dei ragazzotti, no? Se non mi ricordo mai, 4-5 ragazzotti che parlavano, e manco loro si sono accorti di niente. Però poi, quando ho controllato bene, perché poi ho fatto anche il giro della via, ho detto, sto mentendo a me stesso, vado a controllare qui dietro, però la macchina l'avevo posteggiata lì. E niente, sono rimasto con un palmo di naso, devo dirti la verità, con un caso addosso che non mi veniva bene a dire, e niente, la sera stessa sono uscito a cercarla, la macchina, accompagnato anche da quella storia là, e ringrazio Dio di non averli trovati, perché ci sono momenti e situazioni che quando esci con quella storia là, Gianni, la testa non funziona più. È per quello che io dico sempre, armi in mezzo non avverso. Capa capa, facciamo riprendere a Pierpaolo, dai. Pierpaolo si è addormentato. Avanti, vai. Capa capa, vabbè. Sono cose che succedono ai vivi. No, io qui ne ho visto parecchie. Vabbè, prima non c'era la chiesa, ma sotto il ponte, sai quante macchine hanno trovato? 1, Y10, 112, quindi erano poco macchine accattasate, le trai su cucini, tutte demontate. Beh, sono cose che succedono, ma non devono succedere. La gente se li lavora e studi, poi passano questi qui e la rubano secondo te da giustificare. Non è che sia da giustificare, però la disoccupazione è tanta, molti non hanno voglia di lavorare e da qualcosa devono campare, allora ci piangono quelli che ci piangono, capito? Vabbè, non la penso così io. Io penso che se uno va a lavorare, i soldi si riguadagna onestamente, ha diritto di godersi le cose che si compra e non devono essere gli altri a sottrarle. E io penso questo, poi che ci sia la disoccupazione non lo metto in dubbio, è una cosa che mi tocca anche a me, nel senso che mi dispiace se ci sono operai, cose, gente che non ha lavoro, che ha famiglia, però lo so. Quando veniamo toccati direttamente la cosa è ancora peggiore. Ti capisco, però io cioè non è che me la piglio più di tanto, capito? Perché io do sempre colpa a chi parcheggia, come nel caso di Giuseppe. La colpa la do a lui, perché non c'è, c'è la macchina con l'antifurto e non se lo mette, cioè quello lì è come per dire pigliatela, e come a mio figlio non gliel'hanno rubata la moto, però perché gliel'hanno rubata? perché non l'ha legato al palo. Se lui l'ha legato al palo, la moto non gliel'avrebbero rubata. Lui gli ha messo il lucchetto così, quelli là hanno visto che c'era solo il lucchetto, sono andati con una P50, ce l'hanno buttata su e via. Capito? Però se la stata legata al palo, come gli dicevo io, non gliel'avevano rubata. E sai che ti rode a giubito attaccate a rubare la moto non vera? Una macchina con l'antenna al centro della capota. Vieni, vieni a rubarla. Allora, ultimamente c'ho la Ramuresa e la Pattadesa. A me mi dite pochetti con Roberto, di volta che sono Roberto. Ma ci metterebbero più tempo però. Adesso non ne hanno per un più. Buonasera a DJ, che comunque ciao Mario, ciao Charlie, sono ascoltato il discorsetto, sta pure dappertutto, c'è dappertutto, Giuseppe è dato anche il fortunato. Ciao Alicia, buonasera. Ciao. Gianni, caspita, io guarda, dico questo, che la macchina ce l'abbia o non ce l'abbia l'antiporto, questo è secondo me è assolutamente relativo. Il discorso che faccio io è questo, a me hanno insegnato a rispettare la roba degli altri, solo questo dico io posso trovare la macchina anche aperta, con le chiavi nel quadro, passo dritto e manco la tocco. Non per questo una macchina deve essere dotata già di antipurto, perché stai già partendo col coso che te la rubano, mi hai capito? Cioè, non dovrebbe manco esistere quel discorso lì, perché diciamo che sono sempre fortunati che non li trovi, perché dovendolo trovare, caso lo lassi mosso in terra, va buttare lo guerrero antipurto o non antipurto, cioè stai venendo dentro casa mia a rubarmi quello che ho lavorato, ma stiamo scherzando, e tu magari buttato lì con la disoccupazione che c'è in giro, però i bar sono sempre pieni dalla mattina alla sera di questa gente, ma i soldi da dove li tengono fuori? Io ad esempio lavoro e tutti questi soldi per buttarli al bar come fanno questi che risultano disoccupati non ce li ho. Ditemi voi come funziona, perché sarò io tolto allora. No, tu non è che sei tolto. Tu ancora non hai capito che quello che ti aveva rubato la macchina l'ha rubata perché ci dovevano guadagnare dei soldi, se no non poteva stare al bar con gli amici, tutto lì. Siccome c'è la disoccupazione, quello là sarà senza soldi, non è là e viene ruba la moto a te, la macchina, quello che è, l'autoradio, quello che gli capita. Cioè non è che guarda, è di un lavoratore assodato per comprarsi, cioè quello lì in quel momento gli servono i soldi, quello che gli capita tiro, piglia, e non sa guardare in faccia a nessuno, tutto lì è. Poi giustamente magari ci sono amici, c'è quello, c'è quell'altro e si riesce a recuperare, però sta tranquillo che quello lì, la macchina tua l'ha presa, era già controllata, era già fatta, perché l'intenzione era di portartela via, perché lui magari gli avrebbero dato 200-300 euro uno sopra l'altro e via, capito? Non hai lì che sa già chi se la macchina di Giuseppe non la devo toccare. Cioè quella gente lì quando gli servono soldi non guardano neanche il mare e lavare, capito? Perché vanno anche a fare la mare, se non ne possono prendere il portafoglio glielo fregano. Ora questa gente ci prende anche il fare la marcia, perché come sta dicendo Giuseppe passano piedi, non vanno ancora però sono piedi, e trovano sempre lo scemo che ripita il bicchiere di birra e che poi quello che ripita il panino, quello è cambia solo e poi quando si prendono presi per qualche cosa, magari aggiunge quello che l'ha rubata magari, e per consegnarla a questi gli avranno dato 100 euro, però loro poi l'avrebbero settimata e avrebbero guadagnato chissà quanto, ma avrebbero il punto sporco e niente, non viene manco a non pensarci, se no io anche nei discorsi mi faccio il sangue cattivo, perché ho 50 persone ce ne sono troppe, poi le prendo, le fanno pena, la gente hanno fatto un po' di questo per quest'altro, le mani vogliono tagliare. sta andando a acciappare pure nei italiani rimani. In Arabia li portano in piazza, li tagliano le mani e tutta la gente applaudisce. Siamo di Roma, una bella ingrassata per la prima data, ma per immagine che uno magari la compra a latte, non so se sempre, dottor Caritaggio e dottor Gieto questo, oppure si mette da parte i soldi con sacrificio per piace una macchina, hai capito, magari perché l'altro ormai c'è a nessuno, ci può spiegare il piccolo piccolo pallino e te la rompa, cioè, non so se ne dovrà giudere. E capa, Gianni Capri 2, capo 6, se la rendi l'idea. Io ti dico, l'ho provato di prima persona e ti posso dire che non è una cosa piacevole, anche se al ragazzo servivano i soldi per la birra o per stare al bar. A me l'unica cosa che mi ha dato fastidio è stata che vai a rubare a casa di un povero, quello mi gira ancora di più le palle, e se ti trovo impalmato, cioè non guardo in faccia a nessuno in quelle circostanze lì, proprio diventi, io mi sono reso conto che sono diventato un'altra persona, cioè ho scoperto una parte di me che proprio in 47 anni non avevo mai scoperto, mi capisci già? Perché poi il cervello, capito, va a gira, allora magari te la rubano da sera la macchina, poi la notte stai pensando, se ritrovo qui, se ritrovo là, capito, e l'odio si accumula, capito, perché a te ti hanno già preso una cosa che ti porta a lavorare, una cosa che ti porta i bambini al mare, una cosa che ti porta a fare la spesa, una cosa che ti è pagato, comprato con sacrificio, e quello lì fate, e viene più un piccolo pallino, così è una cosa che ti fa cambiare, come ripeti proprio un'altra persona, e Dio molte volte ci deve mettere di più meno, perché uno, se io nell'attimo, credo che anche tu le ha fatte quei quelli di Mario. Prendo io, dai. Ah, una volta quando era fidanzata mia sorella, è sposata già, anche una figlia, ma dico, quando era fidanzata all'ultimo spettacolo con mio cognato sono andati all'Ariston al cinema, Marco, mio cognato si aveva comprato la macchina nuova manco un mese, c'era la R5 GTL, che parlo di tanti anni fa, e aveva detto già, non è che tu conosci qualcuno che mi sa fare un bel impianto stereo, io ho fatto da un amico, lo facevo io, ho fatto fare un bel impianto stereo, e aveva messo le casse nei pannelli come si usava prima, nei pannelli laterali, dietro, davanti e anche nel ripiano. E aveva un suono questa macchina, ecco. Fatto sta che ha tolto lo stereo, tutto quanto. Vanno al cinema, a mezzanotte e mezzo stavano uscendo. E mia sorella gli ha detto, ma quello lì non è la macchina tua, sì, guarda, c'è gente dentro, gente, c'è, mio cognato è alto 2,10 è grosso, ha un fisico allucinante, cazzo è entrato dentro la macchina, ha preso lo sportello, ha pizzicato chi c'è, chi ve l'ha detto, ha cominciato a così cagnotte, ed è vera grazia che lo riusciamo vivi dentro la macchina. Poi l'ha preso, si è fatto dare i documenti e ha detto domani, adesso tutto, me li ha spacciato tutti i pannelli per rubare le casse, adesso domani tu o vieni con i soldi e mi paghi tutto il danno che mi ha fatto, poi io sto andando in questo e lo dico guardi, mi hanno fatto questo danno e ho trovato questi documenti in macchina, poi vediamo cosa succede. Bravo Riccardo, ridinami. Ci credo già. Ascolta, ma mi è sembrato che è rientrato Pierpaolo già. Proviamo a chiamarlo, Pierpaolo. Mi è registrato il break un secondo solo. Avanti, buona. No, stavo finendo col pezzo che tiravo in su, Continuate voi. Tanto il break. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, chi ha fatto? Ciao K2, ben sentito e cordialità, avanti Gianni, un po' di saluti. Siamo stati abbandonati, non so io che sta facendo un attimo, non so con chi si sta parlando che sia stato abbandonato, però per Paolo buonasera, ma siamo un po' di fianco e poi chiediamo che intervengano là la porta. Vagava, avanti Pierpa. E capo, c'è stato un becco, ma c'è stata una sovravolazione, avanti chi stava parlando? Yes. vai, riprendo io Gianni. È entrato K2 e l'ho rilanciato per i saluti a Gianni. Ah, ciao Gianni, scusa di tanto, mi è stato... Ciao, buonasera. Buonasera anche a te, non so se Gianni, sono io, sei Gianni K2, stavo intendendo. Non so se tu ascolti a K2 da Muro, se no... o K2. Ma c'è anche Antonio, Antonio avanti. Cappa. E me, pure a me mi ha già fatto un rumore in bocca, cappa. Mi becco io da. Avvisatemi se c'è qualcuno perché io non lo sento. A K2 non lo sento, a K2 non lo sento. Cappa. Avanti K2, avanti, dici la tua. Mi sembri più bassino adesso. Mi pare di sì. Cappa, confermo anch'io, Gianni K2. Vedi un pochino se riesci a dare un giretto di vite per riuscire a tirarti fuori un attimino meglio, dai. Toma questi colpini aumentati quanti, infatti ho aumentato parecchio canale 18 Eccolo col punticello. Don Paolo, mi senti? Sì, dimmi. E dimmi una cosa, tu riesci a copiarlo K2? No, lo sento io. Insomma, con chi è addirittura? Mi diverti, mi faccio le varie del business. K, Gianni, tu Don Paolo lo senti? Io sì. Ecco, spiegagli un pochino se il baracchino di K2 lui gli può aumentare i canali con lo schema che gli ho dato io. Ali, si è detto Giuseppe cosa ha detto? C'è K2 che ha detto che vorrebbe aumentare i canali nell'apparato, c'ha il 48 VXX come quello che dicevo io. Ma il mio so che hanno fatto un ponte e hanno aumentato tutto. Se lo vanno lo vecchio, sì, c'è un pericolo da fare come il Mobi con 40, vicino al coso, alla PLL. Ascolta, con te. Non è modello vecchio, BSX è nuovo. Sì, ho capito, BSX è nuovo, ma è modello nuovo o di che cosa? È modello nuovo, quello che c'ha il circuito con i microchip. Allora lo poverello, prima. Io pensavo che vestiti quello vecchio. Avanti K2 per Gianni. Aspetta, ma sono sicuro che sia. Io ho visto che non è vero, non è vero, però nel mio senso sono Alan 48. Senz'altro, aspetta, 10 chilometri. E allora 48 sia nel VSX che nell'altro c'è scritto solo l'an 48. Però tu apri il coperchio e sono due cose completamente diverse. Una ha un circuito a PLL e l'altro c'è un circuito con i microchip, capito? Quindi è molto diverso. E quello che c'è il circuito a PLL ci vuole la scheda dei canali e si paga un tanto di metodo dei canali, te lo possono anche aumentare di watt, mettere l'eco, quello che vuoi puoi fare, sempre pagando di più naturalmente. E niente, tutto lì. Per aumentare i canali ci vuole la scheda dei 120 canali, te lo aumentassi a 120. Ascolta a me K2, l'unica cosa da fare è farlo vedere a Pompone, vai, così lui lo apre e vede un pochino cosa si può fare, se lo può fare con il ponticello oppure con qualche altra cosa. Però Gianni, lo sai quello di K2 com'è? E K, va bene, Gianni, dimmi. È come quello che hai nella panna. Sono uguali, sono esteticamente sono uguali Giuseppe, quello che è la panna e l'altro sono tutti e due uguali, solo che cambia il circuito interno. E capa, allora aspettami un attimo, dai, vediamo se ripeschiamo con quello. E sì, bisogna che devo fare lo schema, se c'è la modifica la posso fare, se no no, capito che io. Io non so cosa dirti. Non l'ho mai fatto per il momento ancora di prepararti in due. Io come tu a fare la politica. Ma se magari ripeto, tu. E quindi, ma vedendolo tu riesci a capire se si può fare? Beh, vedendolo sì. Mi ha lasciato quello schema tu. È uguale, è un problema interessante. Allora sai che cosa si può fare, K2? Sabato lo avviciniamo lì da Pomponio, glielo lasciamo e poi ti sa dire se la modifica si può fare con lo schema che gli ho lasciato io, ok? Ok, va benissimo, vai, allora rimaniamo d'accordo così per sabato pomeriggio. Vai tranquillo K2, non ti preoccupare, dai, buon proseguimento. E riprendi Pierpaolo e fai girare, dai, scusate un attimino per la parentesi. E avanti Mario. Cazzo, chi è avanti Mario? Perché poi ci ho pensato, da modo di fare di tu. Andare. si è sentato un attimo e niente, adesso con tutti gli altri che si modifica, ma che non si preoccupare delle valanghe degli approdi. Quello è vero. Tutto predisposto, bisogna fare dei punti, un punticello per il fatto. Per i canali non lo so, per i canali sono, non so come bisogna metterlo in mano. Sì, ma una volta che lo vede il pompogno, se si può fare si fa, e se non si può fare ciccia, però se non lo vede io posso dare ragione e lo capisco anche a Pompogno, cioè detto così anche lui si trova un attimino così. Una cosa è avere l'apparecchio in mano, aprirlo, vedere un pochino com'è e dire ecco, io sono in condizione di farlo oppure no, ci vuole la scheda e non si può fare. Dico bene Pompogno. Qualcosa per invogliare a parlare, ma no. il numero del telefono, il fascicolo del telefono, dice, eccomi, mettimi la portante, così mi fai incalzare, e vediamo che ci sia il peperoncino. Maligni che non sono altri, Mario Casa, poi da un poco con la sua andata più in sa. Però bene, là solo quel ronzio che c'aveva che era da eliminare e basta. Ma io penso di ripetere la questione della batteria, la posizione della batteria, provo a muovere la batteria, capirlo in quel microfono e vedere se è quello lì. Tirando fuori a Gianni Capri 2, però qui io lo sto tirando fuori male. stasera che era incomprensibile. Io lo sentivo benissimo. Era incomprensibile solo perché lui ha attaccato un effetto camera che lo faceva uscire, ma non bene, benissimo. Secondo lui era male. E allora mi ha fatto incazzare, glielo ho detto quello che pensavo. No, perché a parte che quello che stavo usando era un po' microfono, e c'è un po' ecco l'M300, c'è un po' una, è buono. Ma soltanto che lui questi e queste cose non le capisce, non le capirà mai. Non c'è una filosofia di capire le cose, capito? Non è semplicemente come me, come quello. Tanti che siamo qua e se c'è l'eco lo lasci stare e non sta a dire quest'eco c'ha l'effetto così, c'ha l'effetto là. Ma dite, se è troppo ripetitivo, dico guarda, è troppo ripetitivo, ma a me l'eco non me da fotti una celetti, se vedrà uno, se non vedrà. Adesso che cosa ne farà a un'altra persona se sente l'eco? Cazzo, io voglio capire quello lì. Cosa, che cosa di sensibilità l'orecchio gli dà, non riesco a capirlo. Non le piace la modulazione del resto, però glielo ho detto, c'è differenza tra non piacere la modulazione perché c'è l'eco e uscire male o bene. Questa differenza qua lui non l'ha guardata perché ha detto che era incomprensibile e non è davvero, perché lo sentivo bene. Avanti, prego. Niente, sono K2, sono diventato K2. Pagava. K2, se vuoi riprendere non c'è problema, avanti per chi vuoi. Giuseppe, comunque mi ha fatto molto piacere conoscerti, Gianni, mi va anche tu, mi chiamo Adamo. Ma mia, non ti perdi niente, mi conoscere a me. Oh, mi sembri senza togliere niente a nessuno, che più in gamba tra gli altri, Lui non c'è il suo carattere, non è reputo più in gamba, ognuno ha il suo tipo di carattere e sue cose. Cappa, vabbè, immaginate l'incredibile Hulk. No, non ho capito, sei più gamba degli altri. Ho sentito una cosa, comunque più comprensivo che hai azzeccato il YouTube, perché poi Giuseppe ha visto di persona, mi ha conosciuto tutto quanto e c'era molto, tra Antena 1 e Campa 2 c'era molta differenza. Vabbè, Giuseppe è una persona in gamba lo stesso, c'è stata solo un'incomprensione e basta, tutto lì. Sì, un attimo, mi stava chiamando K2, comunque non ho sentito una cosa, ha detto sei più in gamba degli altri, così ha detto. No, Pierpaolo, non ti è tentato di dire niente a te. Vabbè, K2 avanti, dai, vediamo questo microfono. Hai per più compresi. Piace, è troppo complesso. Li devi mettere, secondo me capito, li devi mettere un tantino di camera ecco, un tantino proprio effetto camera. E poi regoliamo tutto. C'hai quel rumore di sottofondo, però la radio l'hai migliorata. Sotto con una mezza trombetta che non ha consiglio, se riesce a toglierla è meglio. Se l'alimentatore l'ha portato in basso, io non lo sento più. già. Meno male, si sono scongelati. Il capo del positivo. Arrivo. Vabbè, sono cose che succedono, caro Gianni, quando molte volte non si usa la testa, non c'è. Ma uno li viene a vedere e dice, ti è mugito. Sì, ma se tu l'hai rubato prima, un colla non manca di fare cosa l'hai rubato. No, noi abbiamo sempre i frigoriferi dei negozi di riserva, capito? In modo che si ferma uno, abbiamo l'altro. Quello lì era solo quello di riserva di un negozio che ce l'ha dato per metterlo nell'altro. E quindi, come si doveva dire, quello lì l'abbiamo messo da parte perché non funziona. Invece non ci ha detto niente, ce l'ha fatto caricare tutto. E dopo un'altra commessa che lavorava in quel negozio lì ci ha detto... Quel banco per forza è così, scatta perché scattava il contattore quando l'abbiamo cambiato per quello. Via, capa, capa, e beh. E beh, per Paolo, sono già qua Gianni. A Giovanni si deve dire, so, capo dai nonchi. Io ci ho messo onestamente, non volevo avere un insulto, come ti ha messo la bocca. Sacchi. Piacere il furretto. Sì, probabilmente sì, perché eravamo in negozio lì di fronte, figurati se no. Sicuramente l'avrò visto qualche volta, anche se non lo conosco bene, dai. E anche perché io non è che dia molta confidenza, ci lavoro lì e buh. Bene o male l'ambiente è quello del lavoro e buh. Mi dia un quartiere o meno. Io ho qualche piace per trovare il fornitore. Scappa. Io ho capito chi era. Fronte a Bar Smeraldo lì. C'è Bar Smeraldo di fronte. Chiave. Scappa, avanti. Io prendo, riprendo per salutarvi, dai. Faccio QRT e ce la riascoltiamo tutte quante alle prossime. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, ciao Mario, ciao a tutti, a tutta la volta. QRT da parte mia. Ciao ciao. Mi approfitto anch'io per stacco anch'io QRT anche per me e domani si inizia presto, dai, e buon proseguimento a tutti voi, ci risentiamo alle prossime se coincide, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo, dice buonanotte, buon trabocco per domani. Avanti per i saluti, o K2 a Cristian, comodo che ti chiami. E comunque il drubito è lui, o no? Ciao Giuseppe, stai, buonanotte e buon lavoro per domani mattina. Ciao, ciao, ciao. Ciao Giuseppe, ciao Panche, buonanotte, buon QRT, niente, ce la risentiamo alle prossime. Gappa gappa. K2, cosa mi stavi dicendo? Niente, stavo parlando di Sottotono. Tu li frequenti? No, mia moglie di Sottotono. Vero? Quelli che ti ho nominato poco fa sono il parente. Ah, K2 probabilmente la me li conosce. Siccome si è venuto in motivazione l'altro giorno quel vetraio che ti ha fatto il capo all'interno del microfono bene della squadra. Sono lì un amico di quello che ho poco fa. Gava gava. Giovanni stai dicendo. Positivo. Ehi. Ma può darsi che la conosca, che mi conosca almeno lì, dai. Vedi che sono l'autista del turismo. Sono giovane anche io e già non ti aspettare chi ti ascolta. Ma già si sente dalla voce. Però anche i giovani c'entrano nei negozi alimentari, no? Sì, per quello che ti ho chiesto lavoro a produttore. Sono l'unico autista, quindi non c'è da sbagliare. Sicuramente guarda che conosce. Pagava. Ma magari più lì a me che io a lì. Perché tante volte la gente mi trova a sassa di cose, mi dice, beh, sempre lì sta lavando, sempre tu risbaglio, ed è così. Ah, cioè, ripeto, e non mi ricordo chi siano, capito? Perché i clienti entrano, escono e magari tu non li vedi, loro ti vedono. Mario. Allora, da domani alla voce. E allora? Per il mattino solo sta lavorando, sì. Tutto il giorno, dalla mattina alle 7:30 fino alla sera alle 6:30. Tempo pieno. No, perché ho sentito che stamattina stavate modulando con Gigi e cosa, pensavo che non avessi lavorato. E qual era alle 4:30 del mattino? Senza le 4:30, vedi come ti va. E dopo che sono stato operato io ho quei disturbi, dormo. Adesso sono in piedi, ora sono in piedi perché voglio rimanere, perché sennò mi alzo ancora prima. Cioè prima le faccio io quelle 4 ore, 5 ore di sonno e prima mi alzo. Anche dopo di tanto lui dormirà e sapi. Se hai problemi di sonno, sì. No, non hai io problemi di sonno, no. Allora, io mi curico, cioè se sto in piedi, per esempio, adesso tu mi vedi, sono in piedi, ma credo che sia dalle 4:30, in piedi non sento nessun dolore. Quando mi curico, riesco a dormire perché giustamente dopo tante ore che stai in piedi, il sonno ti viene e dormi a malagana. Però come passano le 4, le 5 ore, essendo coricato mi si pigliano questi dolori al fianco e niente, mi venivo bisà. Pure un bagone di letto non venivo sensato, sempre male di dolore. E da voi, allo mattese tempo, cosa fai? Mi vedo a passare all'asse. E allora, nulla, me o me ne pesa, mi voglio un computer, mi gioco con un computer, se no, a fare un garantino, secondo da me, l'accompagno, se la faccio un bis. Gava, gava, qualche chilometro, va. Avanti, Chris. Niente, ascolta Mario, ma tu, figliava veloce, parenti, altri parenti hai in Spagna? No, altri parenti in Spagna no. Ah, ok, scappa, niente, sono domani un titolo, conosco altri in Spagna, niente, volevo sapere se i parenti basta. Magari in lontananza c'è qualcosa, però io non riconosco, capito? Tutti gli altri parenti miei sono dalla parte di mia madre perché quelli li conosco tutti, però sono tutti nomi diversi. No, siccome tu mi hai detto zona destra, però non ho capito dove è questa zona destra. Io alle villette, ne conosco di Spano, sono parenti miei. Ma Spano o la O o la U? Spano. Con la U. Così sì. Può darsi pure che ci abbiamo magari in generazione dalla parte di mio padre, può darsi che ci siano dei parenti, però io ho i parenti dalla parte di mio padre, anche perché lui è morto che io ero piccolino, non li conosco, capito? Comunque Gianni, mi ha fatto veramente piacere conoscere Giuseppe di persona, eh. E ti devo dire che è una persona in gambissima, già dall'apparenza se lo dice. No, Giuseppe è in gamba, io voglio. Non. Vabbè, non ha perso la moglie in gamba, il suo buon amico Giuseppe. No, niente, mi ha visto di persona, cioè, almeno ha capito il sonno, tutto quello di fa. E niente, ho visto Antenna 1, ma sono fatta apposta a tanti più. No, guarda, la verità, ho visto quello che sono, ma mi sono mancato un quarto, perché non ci posso fare io per gli altri, vabbè, ti devo questo discorso. Ho fatto un mezzo cassettone perché, cioè, alla fine, cioè, ho avuto un appuntamento io, una persona che manco conoscendo per i capisci. Mi sei andato davvero Giuseppe, scusa se interrompo. Non è Giuseppe però, è Cristian. Io lo so. No, ma avete, ma Giuseppe ti è andato veramente il giorno che è successa quella cosa là. E allora buffone. Mi credi che era giapponese? Oh no, no, già sei venuto, ma sono andato anche io, no, no. Io, siccome io se ho problemi, cioè alla fine io problemi non avevo, sono andato. Gabba. Fatto bene, almeno avete chiarito, dai, non ci sono problemi. L'altro che avevo parlato ero io il giorno, con la radio. Sì, no, guarda, io mi scuso con... Non so se con te, comunque con Natalino soprattutto, perché si è incazzato, perché io sono entrato vuol dire, diciamo, in 448 sono alterato, però mi scuso e niente, alla fine ho trovato di te, abbiamo parlato del più o meno e abbiamo risolto. Io non avevo nulla da nascondere, ti ho fatto vedere che mi chiama K1 o K2. Niente. Va bene quello che dice, dai. Giuseppe non ci sta più. No, non sempre si è andato a letto, antenna 1 si chiama, no? K2, che K2 si dice 2, cosa che si dice? No, siccome lui ha detto, antenna 1 ha detto sia antenna 1 che K1, no? Come si voleva camuffare, ma io sono K2, lui è antenna 1 e K1 come ha detto lui. Per cosa ti ha risposto lui? Niente, siccome gli ho fatto un bel cassetto, io ho detto di no, io ho detto se quando è bevuto se non permette più di entrare, perché io alla fine non devo passare per i tanti suoi e avete fatto il cassettone a me e che mi avete dato anche appuntamento, cioè certo, io ho detto se è attento che demanda il capo della polizia, la faccia lei insomma non può cagare, dai. Lui l'ho già detto. A me non mi ha avuto nulla, allora entra quando si sanno e ne parli quando si sanno, non quando si bevuto. Se aveva lasciato dello tutto poi ce l'aveva fatto meglio, ma mi fa bene a lui e fa bene anche a chi l'ascolta, dai. Avanti, non per farmi gli affari suoi, però ne ho visto troppe gente che si ubriaca e che rovina le famiglie, quindi io faccio servizio di ambulanza, ne ho visto un bel, case distrutte, la gente ubriaca, bambini picchiati, insomma ne ho visto tutti i colori e quella gente lì non è che mi piace molto, dico la verità. Oh Gianni, guarda, scusami, io la conosco, ti ripeto, da pochi mesi, però guarda, mi sono affettato talmente, per la persona che è, i casini che stai facendo tu, guarda, li ho visti e sentiti perché tu ti avevi vicino a lui. Dico, è una persona da corrente, però secondo me la corrente c'è poco perché lui è molto difficile, molto difficile. Questa persona hanno bisogno di un centro specializzato di disintossicazione, devono fare le riunioni, la gente alcolizzata, raccontare la loro storia, insomma, per cercare di uscirne, hai capito? Che so io, guarda, ho fatto prima era un ex capicine, ho fatto la commessa, Sì, tutti fanno così perché devono trovare un modo per sconvolgersi in qualche modo. È una piaga grossa qua. Io ti ripeto, dove faccio servizio ambulanza abbiamo cercato di prenderne uno e lo zio ci ha chiesto di dargli una mano che aveva questo problema, però lui si faceva solo di cocaina e basta. Abbiamo cercato di aiutarlo. Questo ragazzo era un bravissimo ragazzo, faceva il suo servizio, tutto quanto, lo seguivamo. Lo zio ogni tanto ci telefonava di nascosto, diceva che era con noi, che non c'era da preoccuparsi, perché se l'aveva portato lui a casa, perché con la madre dice che faceva quello che voleva, qui non lo voleva più, la madre aveva paura. E quindi si è preso lo zio. Questo qui per anni e anni è stato un uomo tranquillo, un giorno ci ha fregato, era in servizio, stavamo aspettando le chiamate, è arrivato questo tipo, senta io fra che ne abbia c'è una cosa, lì c'è il circolo vicino a noi, mi ha portato al circolo, scomparso Franco, ci chiamano d'urgenza, lo zio che ci chiama a casa in overdose da cocaina, che senza futtita, il suo massa era dato la cocaina, l'ha fatto tutta la droga. E per risvegliarlo abbiamo fatto due narcan e non riuscivamo a svegliarlo, l'abbiamo dovuto pizzicare le orecchie quasi da far uscire il sangue per farlo svegliare, non si voleva più svegliare. Calma. Io ho assistito una volta con quella persona lì, quello che parlo gli senti fanno anche il fisico, fanno delle voci di credito. Non mi ricordo quale sia. Comunque, se ne sei andato, ma stavo buttando veramente il tuo libro. Adesso non mi ricordo perché mi sentivo la madre, ma ha fatto un casino la notte. Non ho dormito tutta la notte, guarda, io mi amo, allucinato. Metadone? No, queste acque, non mi ricordo il nome. Sono delle gocce che danno agli estrusi, Boh. Il Valium. Valium. C'è anche il Valium. Comunque, sono persone che hanno bisogno di sconvolgersi in qualche maniera, capito? Meglio non avere a che fare con questa gente, no? Sinceramente meglio perderla che trovarla. Io vorrei aiutarlo, ma tante volte sono cose troppo difficili da fare. Bisogna che ci sia gente molto esperta, anche se io ho fatto corsi con dottori, con cose, però sempre nei limiti del possibile. Già, mi avete ragione, mi però se la mentalità di loro è molto diversa dalla nostra, tutto il passato che l'ha avuto loro, chi mai lo fa, chi mai lo sa, capito? Non ragione, fa ripartire la cosa. A parte che l'intervento, io mi dico le cose di me, quelle che dice, questo non fa, non capisco. Occhio che non se l'ascolta. No, non penso, perché tanto la fine, penso che si prende il ferro, la fine è tutto il mondo. No, ti giuro, e non cantate tutti con lui, perché a parte che gli ho detto, non cantate della stessa cosa che mi serve, che mi ha fatto l'inverno, che ci hanno preso la mente. Lui, veramente. Vabbè, comunque, se tu riesci, fai un'opera buona a aiutarlo, però stai molto attento. Perché chi va con lo zoppo è preparato a peccare. Quello interessante è che non ci caschi tu poi. Ma già, li faccio anche io, cioè, guarda, è un uomo di scienza, che sono più di anni. Poi, c'è un nome che ho anche detto. Ti giuro, io ho passato la luce, e come tutti i ragazzi, io ho perduto la mia prevalenza di anni. Però, adesso le sono anche già, la pagano la luce, se la pagano la luce, l'acqua, e... Beh, tranquillo, ci vuole ancora niente. Beh, aspetta un attimino, avanti mai. Io no, per me devo aver chiuso. Il problema è questo qua, sempre per esperienza. Io ho visto gente, io avevo un'amica che voleva aiutare questa persona qua a uscirne fuori, e questa persona invece di far uscire lì ha fatto entrare questa amica mia nel giro, ed era una persona che ragionava e tutto. Per toglierla, quando ce ne siamo accorti, l'abbiamo tolta fuori, però sempre qualcosa, la madre poi ha chiesto il trasferimento, il padre se ne sono andati in continente, adesso non l'ho più sentita, però dopo che è successo questo affare qua, il padre ha chiesto il trasferimento in continente per allontanarla da lui, capito, si è messa con questo tipo che era tossico. Guarda, per questa che ho, diciamo che ho conosciuto, però anche la 1, guarda, non si può dire, anche la 1 l'ho conosciuto, non si può dire, anche la 1, parlando di macchine, sono conosciuto tutto qua. Tanto visto, la strada 27 me l'ha consigliata lui, cioè, c'era la mia figlia e va, ma non mi sa qualcosa di tanto. Quelle bianchine non si abbigliati, qualche duno anche io, non è che quando ero un ragazzo, anche sbronzetto me la sono presa anch'io, però sempre fermo lì. Ma quella sia una cosa un po' più seria, se bisognerebbe, lui non ha una vita normale come puoi averla tu, come posso averla io, che c'ha famiglia, che cosa. Ha una sorella magari che lo tiene, magari perché sa che è così e boh. Ma non, tante volte poi arrivi al punto di mandarli via, perché io conosco gente che ha mandato via il marito perché si vendeva il televisore, si vendeva tutto quanto, ma comprarsi la droga. Mia moglie dunque, diciamo che ho conosciuto le tre anche di me, qui a questo punto che appunto si dà quanto io ho avuto anche una figlia e quindi mi ha posto, diciamo, a quelli che mi ha posto, però lui ha detto così, no, speriamo, guarda, che mi ha fatto, per i 30 anni piano c'è la farò perdere i sentimenti, non hai più amore per nessuno, perdi tutti i valori, tutte le cose. Ecco. Avanti. Ciao, buonasera. Una a uno. Che si nascosto da che cosa? O no già? Quanti brecco? Buonasera, c'è Fabio. Poi Fabio, anche se scende così. Così volete. Ma è la radio, non mi piace. Tutta. Sembra che c'è tutto bassi, capito? Come compressa. Che radio, che cosa stai usando? Che microfono stai usando? Sono Antonello, sto provando il mio. Il mio con il microfono. Adesso ha cambiato, Perché c'era l'eco con il delito. Adesso la radio è diversa. Ma stai facendo tutto compresso, tutto potente. Allora? E allora? Così cambiando. Fratello, attenta a te, tu. No, abbiamo preparato tutto, via tutto da, ma ci fai fare il tempo, pronto. Ah, non siete saliti? Oh, e quando ci arriviamo, questo tempo? Beh, non vedo che ve, uia, sta sopra. Abbiamo preparato tutto, ho preso l'aria di voi, tutto. Cappa. E i radiali vengono già fatti, io mi sono dimenticato di dirtelo. Ci sono da coso, da grassi. No, noi abbiamo preso delle tratti di alluminio, le abbiamo fatti noi, abbiamo preso le misure. E le perché che ti ho detto io? Cappa, sono andato dal compagno di mia suocera e le ho lasciate preso l'alluminio. Vanno bene, la stessa cosa, come l'avete preso l'alluminio? Sì, sì, uguale identici, proprio precisi. Ho comprato anche l'alluminio mentre è finita, uguale. Cioè va bene, quindi dovete solo piazzare le buche. Eh sì, siamo andati a porta, non abbiamo finito di preparare tutto, piazzare il tuo cognato, avrei detto sempre qui. Sono i compagni del K2, sì. Non lo so, ma no, lo senti? No, niente. Non ti ascolta il K2? No, non lo sento neanche. È un casino. E diciamo che stavamo parlando di un tema ascoltante. E di che? Ma non lo ascolta. Droga, alcol. Avanti Anto. Ciao, tu lì Fabio se lo ascolti, credo che mi dovreste ascoltare qua terra quando passo basso. Sì, riesco a sentirti, un po' disturbato, ora non riesco a sentirti. Mi ascolta? Sì, sì, ha detto un po' disturbato ma ti ascolto. Ciao. Sì, no. Non riesco a tirarlo fuori io bene, perché adesso, vabbè, adesso è pulito il problema, però ho pensato che mi ascoltasse lo stesso. Adesso stai facendo sattulo, cosa hai fatto? L'avete fatto, non se ne va bene, e altro che non anche lo sa. Ma quello che ha preso su internet? Il Lico, sì. E Lico magari ha bisogno di una taratura, di Lariscio, te lo porti da Adriano, te lo fai tarare. La mattina l'ha fatto lui, l'ha fatto perfetto, usciva tutto strano, boba. Te l'ha tarato bene. Così quelli appariti. Già me l'ha detto. All'inizio pensiamo che è brutto, non so. Comunque anche l'alimentazione, però non ci sono portati, se ne scende. Però l'alimentazione, non basta l'alimentazione. E come tu aumenti, l'alimentatore non ce la fa più e se ne scende il radio. Ti dispensi, ti spegni poi. Ah, Patrizia, era il primo. Prego. Antonio, dove stiamo arrivando, perché? Qua, Bundi. Ah, cazzo, vai, aspettando la mano. dal monte chi è che muti la lucca? Da lucca, dal monte. Non c'era un di mutura. In frequenza, sì. Esatto, in frequenza. No, non c'è adesso. Esatto. Non lo sento a Fabio, se non mi sbaglio. Non lo sento proprio. Fabio a carbona. Eppure siamo vicini, vabbè, sarà che c'ho l'antenna, te l'hai detto Gianni che mi detto dove c'ho l'antenna? Grazie per la sera, me l'ha visto qui, si è messo a ridere, si è messo a ridere e mi ha detto se sono andato sul tetto prendi, se no hai perso. Dove è l'amplificatore tu? C'ho un 737, ma se lo accendo non mi cambia niente. Vuol dire non è andato. Per forza deve cambiare. No, già fa, perché questo qui lo usava mio padre nel 76 e è andato. Soltanto io sono collegato a una batteria di macchina, lei diciamo un po' strano. Ci vorrebbe un amplificatore qua. Ma perché non la metti sull'antenna? No, non la puoi mettere. La potrei mettere come regola, perché ho fatto tutto. Ho fatto il bollettino, mi è arrivata la cosa di la ricevuta, però in poche parole qui sopra abita un signore anziano, dunque quello che con lui bisogna lavorare, ora. Ma fa quelli che ci vogliono, fa la calata del capo, lì è le sole, infatti lì è il palo. Se vuoi ci vuole di lavoro proprio attorno, almeno il tetto cambia tutto, dai. Cioè, si sentono un po' dappertutto. Ma puoi attaccare anche al palo di qualche antenna al televisore? Antenna, mi sa. Aspetta, è il signore che abita sopra di me, che siccome io sono in affitto qua, ci vorrebbe la sua conferma, siccome non c'è la tua conferma, è un po' calino. Tu hai la concessione, però la puoi mettere. E ti metti d'accordo magari, devo piazzare un'antenna, magari lo dici cosa è la piazza. Sì, mi hanno detto anche un altro CD, ma è possibile che tu stai mettendo anche una per il digitale, perché è la piazza, però dobbiamo ancora provare. Va. Metti un palo a parte, li metti. La metti più su del televisore, la metti un po' più di più. E va bene, per non creare disturbi eccetera eccetera, la metti un pochettino più su un palo, un pochettino alto, e va alla grande, si sento la brutta. Avanti. Ho cercato un orecchio ma non vuole venire avanti. Va bene dai. Vabbè già, io mi canto dai. Buonasera a tutti, K2 e Gianni e anche a Fabio. Ciao, buonanotte a tutti. Quelli di per me buonanotte. Ciao, dopo la notte. Avanti Fabio. Buon lavoro per domani. Tutto 144, ciao. Ciao, Anto, buonanotte. Avanti Fabio. Lo riprende. Cristian, solitamente quando c'è una ruota bisogna aspettare che ti rilascino per i saluti, per queste cose qua. Se riprendi tu, poi riprendo io di colpo e ci sovramoduliamo, capito? Sì, scusa, mi sono sicuramente sovramodulato. E io? Scappa. No, non c'è problema, te lo sto dicendo per sapere, non perché, scusa, cosa vuol dire? Tutti all'inizio sbagliano, però è giusto che chi sa le cose le insegna come devono essere. Ma ho sovramodulato a te o a Fabio? Ma non ce la fa sovramodularmi, ma a Fabio magari posso averla modulata per separata magari in due, non lo so. Gaba gaba. Vabbè, comunque magari entrerà e si darà una regolata, anche quello gli è servito, ha fatto bene con Cadillo. No, e comunque così ha sicuramente capito come che non è un giocattolo questo qui, è un passatempo ma non è un giocattolo. No, guarda, per tanto dove è andato uno, secondo me non è stato tutto pensato, sicuro che è stato pensato, ma io non posso passarci per gli altri, cioè per te non posso passarci, anzi addirittura per un appuntamento di un consiglio, anzi per te. No, vabbè, comunque io l'avrei evitato, ma perché vabbè, sei stato per ragionare, per chiarire, avete fatto anche bene, ma certe cose si possono anche evitare, là. Ma non c'è problema. Mandava là, io adesso chiudo, come vado tutto quanto, faccio 44 anch'io perché domani il lavoro mi richiama e sarà dura. Ciao, ci sentiamo, buonanotte a tutti, anche gli ascoltoni. Quello di per me esecutivo, ciao Cristian, certi altri amici, quello di per me. Buonanotte a te e buon lavoro domani, io domani andrò a fare parte di una ruota e speriamo che ci siano passati da qua. Quello del pavimento è tutta una storia, anche se non lo si va, ti si gonfia. E la ragione, mamma mia! Ma fa bene una setta, io. Come ce l'hanno fatta a casa. Ci hanno fatto il pavimento. Sono arrivata alla di pranzo e al tubo fiato. Per curiosità chi ha chiamato? Ha un imprenditore che secondo me è un pasticcione. Ma come si chiama, io va? Non me lo ricordo come si chiamava. Un po' robusto era. Per curiosità, lo conosci il pavimentista, diciamo là, dal tuo nome, Gino Grassi? No, non lo conosco. Lavori con lui? Come no, a trovare il pavimentista. Lavori con lui? Ho capito. Se lavori con lui? Positivo. Negativo, non... Beh... Non sono nell'ambiente io, li ho chiamati per fare lavoro a casa, ma non sono nell'ambiente. Sicuramente un imprenditore, uno che fa il pavimentista lo conosce sicuramente. Scappa, comunque se ci lavori cerca da vicino o a Torino, magari ci conosciamo più persone. Gaba gaba, speriamo che non debba fare altri, non per non conoscervi, ma... è perché pari di là, perché questo mi ha preso, ho buttato un tramezzo del bagno per farlo più grande, c'era la porta che divideva l'antibagno dal bagno, ho buttato un tramezzo, mi hanno fatto una gagata, poi il muratore il giorno dopo non c'è più tornato, si è andato via, è scomparso quello che doveva fare il lavoro, quello si vedeva che sapeva lavorare, ma se Bussuedo a fare il travaglio, ne ha gassino che ha fatto. Siamo a tagliare le mappole dentro casa, non mi ha più, sono entrato in casa, sono un più guaro in ragazzi. Ma tu le puoi, presente ce l'ha. Ha messo le mantole nel pezzo del tramezzo che ha tagliato. Va a mettere le mantole e le gatte di fare tutta canta la via, tutte cante in terra. Rimette le mantole e gli ha fatto due pacchi, rimette le mantole e ce ne avanzavano pure. Di fare le burbuisce, la prima sono quel cazzo, ha detto, ma tu che cosa, ma tu travaglio se va. Allora, ho capito bene che ha fatto un tramezzo e che ha messo le mattonelle nel tramezzo. Praticamente il tramezzo c'era già, l'abbiamo buttato giù per fare il bagno più grande, perché c'era il tramezzo tra l'antibagno e il bagno. Abbiamo buttato giù un pezzo, quello che divideva il bagno dall'antibagno, tolta la porta e buttato il tramezzo, però ho lasciato una parte di su del tramezzo, l'ho lasciata, perché fa anche da rinforzo là. E niente, la parte che lui ha tagliato, tutta la fila dove c'era il tramezzo, ha dovuto mettere le piastrelle e le mattonelle intere, ha fatto un casino insomma. Ma io non so come ha fatto a scendere, vuol dire la cosa che ha fatto a dettagli, è la troppa vita che non succede le mattonelle, perché tu le piastrelle le puoi mettere dove vuoi, ma se la colla cazzo sia umida, appena la tiri, vedi le mattonelle, una volta ne chiuda la colla. La colla è bruciata, se ne scendono dopo. Oh, lui ha preso la spalmata usci e basta. Lì dopo è venuto il piastrista davvero e le ha fatto gli intacchi nel muro, tutto grande, fatto bene. Sono al massimo della portata ma non sto usando niente. Torno adesso magari posso andare con il telefono. Ciao, buonasera a tutti, Marco Scorpio. Ho girato qua e mi ha rifatto lo strumento incollato. Non ricordo di averti mai ricevuto così forte. Vabbè, era giusto una curiosità, perché non mi è mai capitato di averti visto così intenso come sei nato. Bene, ottima anche l'emissione. Va bene, riprendi e fai girare con la buonasera Marco Storzio, a te già. Ciao Marco, sono in compagnia di K2. Stavo per andarmene a letto sinceramente, perché la signora si è andata a letto, c'è un disturbo. No, è il Galaxy Saturn Echo con DM1000, microfono amplificato, tutto lì, non c'ho altro. Io c'ho anche altro, ma non sto usando altro. Sì, no, ma a parte il... Adesso non so io se sono a posto o meno, comunque come era qua sistemato sto trasmettendo. E a parte l'emissione, ottima eccetera, ma probabilmente forse non mi era mai capitato di sentirti così con quest'altro apparato, ma strano perché ricordo che abbiamo fatto più volte quel show mentre usavi il Galaxy, ma un segnale così non ricordo di averlo mai visto. Ti ripeto, devo usare l'IP e l'attenuatore perché altrimenti mi desensibilizzi il ricevitore. Bene, ok. Molto bene, l'antenna per l'altro amico, qui Marco Scorpio, ma parte alta di Sassari. Ok Marco, lo sento, ma molto basso, riesco a capire la malapena. Questo per Marco è un colpo. Marco, sentite cosa hai, ti sente basso. Oh, no, non sto usando niente per qua, non c'ho l'antenna sua già, c'ho antenne per altre frequenze, ho fatto giusto partire la corazzatura, era una curiosità, non c'è la Mantova adesso qua attaccata. Comunque l'amico è con un'antenna tipo bazooka, stiamo dando la partita esattora, e ce l'ha anche fuori dal balcone, quindi è in condizioni un po' precaria. Ho capito, ma io non ho... Guarda, aumento un pochino, magari forse mi sente meglio, ma l'antenna non è adatta qua per la 27. L'ho accordata, ma non va qua. La Mantova ce l'ho adesso sistemata su un altro apparato e e non è, gli viene male, insomma, usarlo. Va bene, molto bene già, ottima anche l'emissione, ti ripeto, alla grande. Va bene, saluto l'amico, adesso non so se mi ha ricevuto, ho aumentato un po' la potenza giusto per forse per farmi sentire, se mi riceve. Se no, buon proseguimento, ciao ciao, buonanotte, Marco Scorpion, rimango ancora un attimo in ascolto e poi mi sposto, ciao, già alle prossime. Ciao Marco, hai sentito, ci ha fatto piacere sentirti, dai. Come al solito quando vuoi fate sentire. Saluto anche a K2, io faccio il colletti definitivo, vi domando quando andare a lavorare. Ci sentiamo, avanti K2 per l'ultimo passaggio e poi sto chiudendo. Sì Marco, come ripeto ti sento a malapena, riesco a decifrarti però molto molto lontano. È colpa mia, lo so, c'è un antenino fuori dal balcone. Probabilmente non ti ho sentito, Ciao, ci sentiamo, buonanotte di nuovo. Ciao, ciao, buonanotte, non l'ho sentito. Ciao, ciao, buonanotte K2. Alle prossime, magari un'altra volta con l'antenna, con la mantova, sicuramente magari mi ricevi meglio. Ciao, buonanotte, ciao, già. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, Gianni. È andata a dormire Natali Gianni. Natali sei tu? No, sono K2. No, sono Fabio. Ero un barco. Buonasera. Ah, ciao Fa, per un attimo mi è sembrata la voce di Natalino mentre è quasi addormentato a letto. Ciao, buonanotte Fabio. Anch'io mi sto spostando qui dalla banda cittadina. Ciao ciao, buonanotte da Marco Scorpion. Ciao K2, ti ascolto comunque, io ti ascolto 5253, non c'è problema. Ciao, buonanotte. Ciao.